Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. In questa puntata parleremo di mucche con gli oblò, orsi perennemente minacciati, caccia alle balene, buone notizie dal processo di Green Hill. Una scaletta musicale come sempre ricercata e il piatto non violento del giorno di Gabriele Palloni completeranno il quadro. Gli oblò sono stati una gran bella invenzione. Permettono di spiare il mondo sottomarino mentre si è comodamente seduti in una cabina di una nave, oppure di ammirare gli incantevoli paesaggi dalle incredibili altitudini a cui volano gli aeroplani. Ma perché stiamo parlando di oblò in una trasmissione antispecista e animalista? Molto semplice e anche molto inquietante. Perché esistono veri e propri oblò che sono stati applicati sui fianchi di alcune mucche per poter osservare la digestione degli animali e avere così accesso diretto allo stomaco. Si tratta in realtà di una vecchia pratica detta fistulazione, che contrappone ricerca scientifica e associazioni animaliste. È stata infatti l'organizzazione animalista francese L214 a denunciare ancora una volta questa incredibile e dolorosa pratica, realizzando un'investigazione tra febbraio e maggio di quest'anno e resa pubblica alcuni giorni fa all'interno di un laboratorio sperimentale ad ovest di Parigi, che appartiene ad una società di mangimi per animali, parte del gruppo agroalimentare Avril. Le immagini che si vedono nell'investigazione sono molto forti. Si tratta di 6 mucche a cui viene praticato un foro con un'operazione chirurgica, allo scopo di studiarne i processi digestivi. La digestione dei bovini è infatti particolarmente complicata a causa della presenza di ben 4 stomaci. Attraverso l'oblò, infatti, i ricercatori stanno cercando di studiare le trasformazioni che avvengono durante la digestione, calcolare così la velocità con cui il cibo è digerito e scegliere il foraggio migliore per aumentare la produttività delle mucche. Il tutto per massimizzare la produzione nel minor tempo possibile. Immediata naturalmente la risposta del gruppo agroalimentare all'investigazione di L214 che cerca di minimizzare, denunciando che il video sia stato filmato di notte per scopi sensazionalistici, oltretutto in un centro che apre regolarmente le sue porte al pubblico. Inoltre, sempre secondo Avril, questo processo è regolato da regolamenti ed è soggetto ad autorizzazione da parte del ministero responsabile della ricerca. Insomma, se è consentito dai regolamenti e serve per massimizzare la produzione, che male c'è? Sembra un po' questa la morale. Per il gruppo agroalimentare francese, inoltre, che riconosce sì l'invasività dell'operazione, gli animali però non soffrirebbero. Anzi, questa ricerca fornirebbe numerosi vantaggi a partire dai progressi nella riproduzione, al miglioramento della salute dell'apparato digerente di milioni di animali, alla riduzione dell'uso di antibiotici e delle emissioni di nitrati legati al metano. Eppure, assistere a degli operatori che infilano il braccio fino al gomito nello stomaco degli animali a noi sembra non solo invasivo, ma surreale e ingiusto. I scienziati potranno anche dire che questi animali non soffrono ed essere, diamogli anche il beneficio del dubbio, spinti da buone intenzioni. Ma il punto non è più nemmeno questo. Piuttosto dovremmo chiederci se è giusto, se è sano disporre dei corpi degli altri, oltretutto in maniera così spregiudicata e invasiva, e fino a che punto il fine giustifica i mezzi. Giorni fa è circolato sui social e su alcune testate online un bellissimo video in cui un orso alle prime ore del mattino si rinfrescava in una fontana a San Sebastiano dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Una sgrullata dopo essersi rinfrescato per poi sparire pacificamente e tornare nei boschi. Immagini che ci hanno fatto sorridere e anche solidarizzare con l'orso visto le temperature di questi giorni. Eppure in Italia abbiamo uno strano rapporto con i selvatici e in particolare con gli orsi. Specialmente in Trentino, il cui tema orso infiamma ogni volta gli animi quando un plantigrado oltrepassa i confini geografici e di comportamento entro cui non sa di essere stato posto. E la conseguenza in molti casi è sempre la stessa, la cattura. Così come ha deciso il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per M49, un esemplare di 3 anni che da tempo è protagonista di una serie di predazioni. Alla notizia è seguito subito l'altolà del ministro dell'Ambiente Costa tramite un post su Facebook. Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha dato ordine di catturare l'orso M49, ma non può farlo, ha dichiarato, spiegando che catturare l'orso M49 senza una deliberazione ufficiale da parte dei tecnici della conferma della sua pericolosità è solo un'inutile forzatura. Costa ha inoltre rilevato che mai e poi mai si parla di abbattimento, mentre la cattura sarebbe finalizzata a far vivere l'orso in cattività in uno spazio grande ma recintato e continuamente monitorato. Un lungo botta e risposta tra i due sui social, che si è concluso con esito negativo. Il 1 luglio, infatti, il presidente della provincia autonoma di Trento ha firmato l'ordinanza con la quale si dispone la cattura dell'orso. Nel testo del provvedimento si ricorda come M49 si sia reso responsabile di numerosi danneggiamenti al patrimonio zootecnico e di ben 3 tentativi di intrusione in locali produttivi o privati. E si evidenzia come anche l'ISPRA, nel suo parere del 18 giugno scorso, abbia riconosciuto l'esistenza dei presupposti indicati dal piano Pacobace, per i quali è prevista la captivazione o l'abbattimento. Insomma, l'orso verrà rimosso. Questo il termine utilizzato nel testo, tramite captivazione permanente. M49 finirà la sua vita imprigionato per evitare il ripetersi di situazioni di pericolo, si legge nella nota, per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Si tratta dell'ennesima occasione mancata per sviluppare una riflessione sul tema della convivenza con i selvatici, puntando su soluzioni veloci come la cattura o le uccisioni, ma totalmente prive di una visione per il futuro. Si vuole continuare ad ammazzare o imprigionare gli orsi fino a quando non si estingueranno? L'idea è forse quella di non avere più selvatici in giro per i boschi, in natura, e di andarli a vedere reclusi in uno zoo? Qual è il futuro di questi animali? Che mondo stiamo costruendo e immaginando? Il nostro pensiero speranzoso e malinconico allo stesso tempo va a quell'orso che in Abruzzo si è rinfrescato in una fontana cittadina, serenamente e senza la minaccia di essere catturato per sempre. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful. Siamo sempre in Abruzzo e parliamo ancora di orsi per parlarvi di yoga, l'orsa diventata famosa negli anni 90 per le sue scorribande in cerca di cibo nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo e morta pochi giorni fa a 30 anni. Negli anni yoga era diventata molto famosa, si avvicinava sempre di più ai campeggi, alle abitazioni, era sempre più confidente, finché un giorno è arrivata a Opi, in provincia dell'Aquila, durante la festa patronale, creando momenti di apprensione e panico tra i cittadini. Poco tempo dopo entrò nella cantina di una casa e a quel punto il parco prese la decisione di ridurla in cattività. Yoga ha rappresentato il primo caso in cui l'ente parco ha ridotto in cattività un orso problematico. Cari ascoltatori di Restiamo Animali, vi presento Porto de Madama, una composizione di Ginga, accompagnato da Quintetto Villa Lobos. Ginga è un cantante, chitarrista e compositore brasiliano, geniale e innovatore. La sua musica viene definita da artisti come Chico Buarque la musica del secolo e altri come il compositore Hermeto Pascoal affermano che un artista come Ginga nasce una volta ogni 100 anni. In Brasile gran parte della scena musicale si è schierata contro il presidente Bolsonaro e la sua politica, diciamo poco rispettosa verso i temi sociali e ambientali. L'ambiente, le foreste, la biodiversità, gli animali sono minacciati dagli uomini di potere. Gli artisti invece, come è noto, sono più vicini alla natura e alla bellezza. Oh, È finita la tregua per le balene giapponesi ed è ricominciato l'incubo. Dopo 30 anni a partire dal 1 luglio, il Giappone ha ripreso la caccia ai giganti del mare. Potranno essere uccisi 227 esemplari entro la fine dell'anno e solo in acque giapponesi. Nel 1982 l'International Whaling Commission, l'organizzazione internazionale che si occupa di regolare la caccia alle balene nel mondo, aveva promosso una moratoria alla caccia di balene a fini commerciali, entrata in vigore nel 1986. Il Giappone, in quanto membro di questa organizzazione, aveva però trovato un escamotage, giustificando la propria attività come ricerca scientifica, una motivazione che palesemente nascondeva il fine di proseguire la caccia commerciale senza il rischio di incorrere in sanzioni. Oggi così il Giappone può tornare a cacciare indisturbato, senza nemmeno più le azioni di disturbo che per lungo periodo sono state messe in campo dall'associazione ambientalista Sea Shepherd, che da tempo purtroppo ha cessato queste attività. Negli anni 60 in Giappone si consumavano 200.000 tonnellate di carne di balena l'anno, mentre ora sono ridotte a 5.000, per cui non si capisce esattamente tutto questo desiderio di mettersi a uccidere balene. Secondo Patrick Remege, direttore del settore di conservazione marina all'International Fund for Animal Welfare, si legge sulla stampa.it, questa decisione, ha spiegato, sarà l'inizio della fine per la caccia alle balene giapponesi. Solo i più fanatici burocrati delle agenzie di pesca possono credere che sia possibile resuscitare, continua Patrick Remege, la domanda dei consumatori e cominciare una nuova gloriosa era di cattura costiera per soddisfare la richiesta di carne di balena. Speriamo che abbia ragione e che questa follia finisca il prima possibile. Il ministro delle attività culturali Alberto Bonisoli ha annunciato che giovedì prossimo si insedierà la cosiddetta cabina di regia interistituzionale chiamata a discutere la bozza di decreto sul superamento della presenza degli animali nei circhi. Al tavolo ministeriale siederanno enti locali, rappresentanti del Ministero dello Spettacolo Circense e dell'associazionismo animalista. Seguiremo gli sviluppi del decreto, ma la sensazione è che la fine di questo antico abuso sugli animali sia ormai cominciata. Un'altra ministra, quella della Salute, Giulia Grillo, annuncia che il 16 luglio sarà istituito un altro gruppo di lavoro, il tavolo per la promozione di metodi alternativi, chiamato a discutere della cosiddetta sperimentazione animale. La ministra ha rilasciato un'affermazione piuttosto impegnativa. Lavoriamo, ha detto, per una sperimentazione il più possibile incruenta e in prospettiva per il superamento dell'uso degli animali. Il nostro compito è quello di favorire il progresso scientifico e allo stesso tempo creare alternative all'utilizzo degli animali negli esperimenti. Non sarà un processo immediato, ma non è un obiettivo impossibile da raggiungere. Così la ministra, ma sappiamo quanto sia difficile la strada indicata, soprattutto per la fortissima opposizione della comunità scientifica, nonostante le crepe che si sono aperte al suo interno in questi anni. ma sta prendendo campo il tema etico, che poi è quello decisivo. Il dogmatismo scientifico che pretende di giudicare lecito e illecito, buono e cattivo, accettabile e non accettabile, in base a pure considerazioni tecniche, ha ormai fatto il suo tempo. Lo stesso dibattito in corso in questi giorni attorno al caso dei 6 macachi sotto sperimentazione all'Università di Torino mostra che il tema etico è quello principale. A chi non ridisce di fronte all'idea di 6 individui menomati a livello cerebrale per studiare certe reazioni del cervello e poi ipotizzare eventuali analogie con la mente umana, si risponde sostenendo che i macachi non sentiranno troppo male, che non resteranno ciechi e si sorvola su tutto il resto, a partire dal fatto che esperimento finito, i 6 animali saranno soppressi, gettati via come provette ormai consumate, oggetti inutili. La scienza, diciamolo, ha davvero bisogno di farsi un esame di coscienza e aggiornare i parametri e i punti di riferimento. Se vuole mantenersi in connessione con un'idea di civiltà e di rispetto della dignità di tutti gli esseri viventi che vorremmo continuare a coltivare. Vedremo nelle prossime settimane e mesi se le buone intenzioni dei ministri Bonisoli e Grillo porteranno a qualche risultato. Questa settimana la ricetta del nostro vegan chef Gabriele Palloni si ispira ai conigli. Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Si possono cucinare piatti tradizionali utilizzando solamente ingredienti vegetali? La risposta è sì, certamente. La nostra cucina regionale, quella che ha le sue radici nei piatti poveri dei contadini, offre già tantissime ricette a base vegetale. Ma ce ne sono altre che con pochi accorgimenti possiamo riscoprire e liberare dalla crudeltà. La ricetta della fricassea, che solitamente prevede coniglio o pollo, ne è la riprova. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di farina di glutine o instant seitan, 100 g di farina di ceci, 300 ml di acqua, una carota, una cipolla bianca, una costola di sedano, la scorza e il succo di un limone, un bicchiere di vino bianco, un rametto di rosmarino, 40 g di farina, 2 cucchiai di farina di ceci, 100 ml di latte di soia non dolcificato né aromatizzato, un pizzico di sale Kalanamak, un pizzico di curcuma, del pepe, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e un mazzetto di prezzemolo. Mescolate la farina di glutine o instant seitan assieme alla farina di ceci. Aggiungete un pizzico di sale e, mescolando, l'acqua a temperatura ambiente assieme ad un cucchiaio di olio extravergine. Lavorate fino ad ottenere un impasto omogeneo, quindi fate riposare per 15 minuti. A questo punto realizzate tanti piccoli bocconcini che farete cuocere per 20 minuti in un brodo vegetale con una scorza di limone. Lasciate raffreddare nel brodo di cottura e successivamente scolate e fate marinare per 2 ore nel vino bianco con rametto di rosmarino. A parte, lavate e tagliate a pezzi grossolani la carota, il sedano e la cipolla. Mettete il tutto in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente evaporato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e fate rosolare per 5 minuti. Unite i bocconcini che avrete scolato dalla marinatura e lasciate cuocere lentamente per altri 10 minuti. Infine bagnate col vino bianco della marinatura e lasciate evaporare. Nel frattempo sciogliete la farina di ceci con il latte di soia, il succo di limone, la curcuma e un pizzico di sale Kalanamak. Lavorate fino ad ottenere una crema liscia e lasciate riposare. Separate le verdure dai bocconcini e frullatele con del brodo vegetale fino ad ottenere una quantità di circa 500 grammi. Fate un roux con 2 cucchiai di olio extravergine e la farina. Fatelo tostare qualche minuto, quindi unite la crema di verdura e lasciate addensare. Quando avrà raggiunto la densità di una besciamella morbida, aggiungete la pastella di farina di ceci e limone. Unite i bocconcini e mettete sul fuoco per altri 5 minuti, aggiustando di sale e aggiungete anche una generosa macinata di pepe nero. Servite con del prezzemolo fresco tritato finemente. Chiudiamo la puntata con 2 belle notizie che arrivano sul caso Green Hill. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello del Tribunale di Brescia per l'accusa di furto nei confronti dei 12 ragazzi che il 28 aprile del 2012 portarono in salvo e alla luce del sole i primi beagle di Green Hill, il cui allevamento venne chiuso lo stesso anno. Negli stessi giorni, inoltre, la Corte d'Appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Brescia, condannando a 3 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici uno dei 2 medici veterinari ASL, accusato di concorso in maltrattamenti, uccisioni, omessa denuncia e falso ideologico, nel processo Green Hill Bis. Condannati a 1 anno e 4 mesi 3 dipendenti di Green Hill per falsa testimonianza, mentre è stata confermata l'assoluzione del secondo veterinario ASL imputato. Quest'ultima notizia, siamo davvero in chiusura. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata alla nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis e la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 492 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.